No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Dai, ma scusa, ma questa trasmissione è fantastica, c'ha sempre però quel Parenzio che comunque è messo lì a dire delle cose un po' strane. Parenzo, che io non ci posso credere al fatto che ancora nel 2014, anzi non so perché c'è in testa il 2014, nel 2015 ci siano persone che perdono il loro tempo il 30 aprile pomeriggio, giorno feriale normale, giorno di lavoro, so che per te è una cosa molto complicata da capire, giorno lavorativo per andare, chi se ne fotte, giorno prefestivo non esiste qui alla Zanzara, festivi, prefestivi non esistono, perdono il loro tempo per andare a fare una manifestazione contro l'Expo. Adesso uno può avere mille ragioni per dire che l'Expo, le ruberie, le inchieste, i ritardi, i padiglioni che non sono pronti, eccetera, eccetera. Si può dire tutto quello che volete, lo abbiamo detto più volte anche qui. Ma perché devi andare a imbrattare una vetrina per strada? Perché? No, no. Perché devi andare a fare delle scritte con lo spray? Perché devi tirare delle uova? Perché sostanzialmente devi rompere i coglioni alla gente normale? Devi tenere impegnata la polizia per protestare contro cosa? Contro cosa? Contro il fatto stesso che ci sia l'Expo? Contro cosa? Vabbè, comunque sentiamo qualche voce di quelle che erano in piazza oggi pomeriggio a Milano, per esempio. C'è questa cosa che ci opponiamo al lavoro gratuito, per carità, se uno viene fatto lavorare, se uno lavora a gratis, come dire, o sottopagato, ci sono le norme, le leggi, gli ispettori del lavoro, quello che volete. Sentiamo. Oggi 30 aprile, appunto, un giorno prima dell'apertura dei cancelli di Expo, la generazione che si oppone al grande evento, che si oppone al reclutamento di giovani attraverso il sistema del lavoro gratuito, del lavoro gratuito non pagato, si oppone al grande evento e scende in piazza. Poi basta che si sentono queste voci per dire vabbè ragazzi, tu, dai, via, via. Senti questa. Ma io sono per l'Expo, quindi... Senti questa. Oggi abbiamo voluto praticare del conflitto, ma in modo condiviso con il corteo, infatti tutti gli studenti in piazza oggi, a partire dai cori, a partire da quello che dicevano i volantini delle nostre assemblee, esponevano il loro conflitto. Oh, c'è anche Fedez che dice indigna più la loro vernice che la mafia, ma che cazzo c'entra? Sono due cose che non c'entrano nulla. Cioè sono piccole cose, non è che imbrattare una vetrina sia di per sé una cosa, ma sono, è proprio che non mi arrendo al fatto che sia considerata, cioè non mi arrendo al fatto che sia, se uno imbratta un poi c'è qualcuno che lo deve pulire, dunque soldi, è criminale, adesso non esageriamo, è un coglione secondo me, ma detto questo, uno che, perché se uno imbratta sotto casa tua se uno imbratta sotto casa mia, poi c'è qualcuno che deve andare a pulire, dunque sono soldi nostri, però uno, perché l'orda il tuo palazzo, casa tua, scusa, è questo, Per noi violenti sono altri, per noi la violenza non è una vetrina sporcata, ma sono i barconi che affondano davanti all'indifferenza di chi governa e di chi gestisce. C'è violenza in questo mondo, non è sicuramente una vetrina sporcata. è stata attaccata anche Manpower, quell'agenzia di lavoro interinale che, come sapete, è stata al centro di tante polemiche perché avrebbe proposto contratti all'ultimo secondo, anche contratti non particolarmente vantaggiosi per chi voleva lavorare all'Expo. 800 24 00 24. Intanto c'è qualcuno a Livorno che si pulisce il culo con la tessera del Partito Democratico. Questo tizio si chiama Auteri. Sentite Auteri. Verso questo partito che di democratico non ha più niente e che e nel quale non mi riconosco di una maniera assoluta. Quindi da dirigente, dandovi dimostrazione che non tengo alla poltrona, mi scuso con le signore, ma vedete cosa faccio della mia tessera PD. Vedete? Sì. Mi ci pulisco il culo e la butto nel cesso. Questo pare che sia incazzato perché dice che l'Italicum non si può votare a maggioranza, non si può votare con la fiducia, eccetera, eccetera. Vabbè. Oh, vogliamo ricordare ieri che cosa ha detto, ma una piccola frase, proprio a quest'ora, Don Paolo Farinella ha detto a un certo punto che Renzi va sostanzialmente ucciso. No, ma è incredibile. Ucciso. No, io me lo devo togliere dalle palle. Poi che succeda? San Tommaso dice addirittura che chi uccide il tiranno è lodato e merita un premio. San Tommaso, non lo dico io, lo dice San Tommaso. Bisogna resistere a tutti i costi, sia al tiranno di usurpazione come Renzi, sia al tiranno di governo come Renzi. Contro tra Renato Brunetta e un giornalista della Stampa, Geremicca, sempre su Renzi, il fascismo, insomma la cazzata che ha detto Brunetta l'altro giorno del fascismo renziano. Però devo dire, questa cosa del fascismo renziano, da Don Paolo Farinella ad altri commentatori autorevoli che tratteggiano e dipingono Renzi come una specie di piccolo dittatore, come un caudiglio, ha detto anche, lasciando il Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, insomma danno l'idea che siamo di fronte a uno che ci vuole imporre il suo tallone, che ci vuole imporre il suo stivale, la sua forza. È tutta una stronzata, secondo me. Non sono renziano, ma questa roba qui è veramente una stronzata. Cioè, pensare che siamo di fronte a un tiranno è una puttanata. No. È una puttanata sesquipedale. Ma che ha forzato le regole, sicuro. Ma che ha forzato le regole? Ma quando mai, dai? No. Ma qua che ha forzato le regole, dai? Beh, questo l'ha scritto però. E chi se ne frega? Si chiama Ainis. Chi se ne importa, comunque. Però è un professore di diritto costituzionale. Va bene, ho capito, ma secondo me non è così. Ma ho capito, il Parlamento sta votando a maggioranza o no? Sta votando o non sta votando? Sta votando. Quando vedrò scrivere, quando vedrò un editoriale di Mauro da Mantova sul Corriere della Sera, allora prenderò in considerazione Mauro da Mantova. Siccome Ainis, che non è Mauro da Mantova, ma è un costituzionalista, ha scritto delle cose sacrosante oggi sul Corriere, mi pare che un problema di come se non altro di forzatura ci sia. Poi possiamo, voi certamente non è un dittatore. Brunetta Geremica. Ha parlato di fascismo renziano. È una roba da ridere. È da ridere l'atteggiamento della stampa che giustifica questo governo, forse perché Marchionne è stato giustificato dall'essere andato via, dall'Italia, sia con gli stabilimenti Marchionne, che con le tasse. Su via, è ridicolo. Siete ridicoli. I poteri forti sono ridicoli. Siamo alla vigilia di un colpo di Stato. La stampa è di proprietà della Fiat. Vorrei segnalare al candidato presidente alla Regione Veneto del Partito Democratico che in una delle sue liste c'è un ex leghista bossiano che si chiama Santino Bozza, così riferiscono i giornali. Signor Santino Bozza, noi alla Zanzara questo Santino Bozza ce lo ricordiamo bene. Adesso ex leghista bossiano alleato con la Moretti, il che non significa ovviamente nulla, ormai i partiti sono liquidi, ognuno fa il cazzo che vuole, eccetera. Vabbè, eccetera. Alleato, non è che è in lista. No, alleato, no, è alleato in una lista che sta insieme alla Moretti, che sostiene la Moretti, è alleato della Moretti, Santino posso Bozza. Dire che anche questo un po' mi dispiace. Ma ti dispiace, questo? Noi vogliamo solo ricordare uno dei passaggi alla Zanzara del signor Bozza. Te lo ricordo, Santino Bozza. Manda la borsa, ti prego. No, Santino Bozza. Vedi, io, a me non piacciono proprio, guai, se ce ne sono dentro, mi stacco, sono tutti qualche metro. Probabilmente mi giro anche, sono assolutamente contro quello che è diverso, nel senso, io so che purtroppo esistono, ci sono malati, c'è un sacco di gol, io li considero diversi. Purtroppo esistono, sono malati, Santino Bozza, alleato della Moretti. No vabbè, ha una lista sua questa. Beh, ho capito, è alleato della Moretti, arrenditi. Vabbè ragazzi, 800 24 00 24, è con noi l'uomo che non si arrende mai. Credo sia andato a manifestare anche oggi, probabilmente non ha un cazzo da fare. Giorgio Cremaschi, buonasera. Buonasera, no, qualcosa da fare ce l'ho sempre. Oggi non sono andato a manifestare, comunque domani ci sarò sicuramente. Ah, domani andiamo. Assolutamente, saremo in tanti. Guardi, penso che saranno di più quelli che manifestano contro il primo giorno che quelli che vanno a vedere l'Expo domani. Ma lo sa che hanno preso di mira con dei lanci, hanno spaccato le vetrine di Manpower, hanno anche imbrattato cose di questo tipo, i manifestanti? Sì, Manpower, beh, insomma, con tutti i guai che combina Manpower, devo dire, mi pare un peccato veniale. Ma come un peccato veniale? Cioè, beh, hanno spaccato le vetrine, Cremaschi? Cioè... ho capito, ma sa quanti danni fa Manpower al mondo del lavoro? Ha assunto la gente, è riuscita persino... Ma che c'entra questa cosa? Considerando il fatto che già lì ci sono dei contratti schifosi, di super sfruttamento, ci sono i lavori gratis, è riuscita a fare peggio dei contratti ufficiali, per cui persino l'Expo ha dovuto convocarla per dirle che stava un po' esagerando. Ecco, d'accordo, quindi, ma è giusto. Ma secondo lei, secondo me, questa è violenza. Ecco, questa è violenza. Questa poi è violenza. Invece le vetrine sono in dettaglio. Sono piccola violenza, questa è violenza in grande, sai, io lo penso sempre, quindi io non mi dissocio da niente di quello che sta avvenendo in questi giorni, perché è chiaro, io non faccio cioè sono cose, degli schiavisti. Assolutamente sì, ma non solo loro, diciamo che stiamo precipitando verso una situazione. Beh, sa, quando uno comincia a lavorare gratis. Ma no, ma questi qua non fanno lavorare nessuno gratis, dai. Beh, quasi gratis, a dei livelli. Tra l'altro. Ma è il lavoro che c'è, bisogna prendere. È un lavoro che fa schifo, certo, lo dicevano, d'accordo, così anche delle piantagioni di cotone, che è il lavoro che c'è. Sì, io ho capito. No, allora è giustificato il fatto. Io non sono d'accordo su niente su queste cose qui. È giustificato il fatto che uno vada a tirare dei sassi o a imbrattare le vetrine di un'azienda, diciamo, secondo lei. Siccome hanno proposto, forse, con, quando, perché, non si sa, dei contratti sottopagati, è giusto che si vada a imbrattare le vetrine oppure a sfasciarle? Non mi parono fatti particolarmente gravi. Rispetto, sono cose più gravi le cose che fanno Manpower, lei dice. Assolutamente sì, e comunque oggi c'è un livello di contestazione che è fatta anche di questo, bisogna prenderne atto. Diciamo che non siamo ai livelli di Ferguson, così come non siamo ai livelli di Francoforte. Purtroppo, secondo lei, purtroppo. No, non dico purtroppo, questo non lo dico. Ma lo dico che in tutto il mondo c'è una contestazione che anche... usa anche questi strumenti. Non è la mia, ma non la condanno. Un attimo solo, traffico. Traffico veloquilare. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Sì, ma dai, fatti bravi. Alcune lezioni sul matrimonio, poi torniamo con Cremaschi, alcune lezioni sul matrimonio di Vittorio Feltri. Beh, ragazzi, io ve lo posso dire chiaramente, sono assolutamente d'accordo al 100% con quello che dice Feltri. Il matrimonio andrebbe fatto oltre i 70 anni. Ma cosa, c'è? Ma cosa c'è di più, come dire, di più sacro di quello che dice Feltri? Lo sai che io me ne sbatti i coglioni del fatto che sia stato detto a Matrix? Non lo ridire ancora di più, perché mi fa innervosire questa cosa. Beh, qua, Feltri. Ma però, chi se ne frega? Dai, Feltri! Insomma, il matrimonio andrebbe fatto oltre i 70 anni, perché quando pone un limite, dai 70 anni in poi si può fare, perché lo si fa in modo ragionato, si prescinde dagli ormoni che spesso fanno prendere delle decisioni che sarebbe meglio evitare. E poi dice Feltri che l'unico matrimonio duraturo è quello di interessi, ma è così, ragazzi, è così. Ragionateci bene, pensateci bene, è così, non fate cazzate, non fate stupidaggini, sposatevi dopo i 70 anni oppure non sposatevi, è una roba assurda questa roba qua, è una prigione. L'unico matrimonio duraturo capace di resistere all'usura è quello di interesse, per cui io sono convinto che se c'è la convenienza c'è anche la possibilità di evitare degli intoppi, evitare non solo i divorzi, le separazioni, ma anche gli avvocati che trattano questa materia. Allora, siamo con Giorgio Cremaschi, che ha pochi istanti fa, non dico fatto l'elogio, ma quasi, delle sassate o delle scritte contro alcune aziende di lavoro a Milano durante le manifestazioni contro l'Expo. Io voglio capire una cosa, Cremaschi, ma secondo lei, se ci fosse un bel assalto all'Expo di massa, no? Un bel assalto proprio, non sarebbe, lei lo approverebbe, no? Cioè, sfondiamo tutti i cancelli e invadiamo l'Expo, o no? Ma guardi, a parte il fatto che mi permette di fare una battuta che non c'entra con la sua domanda, ma siccome ho sentito anch'io la cosa simpatica di Feltri, di 70 anni, siccome ne ho 67 mi sento in età prematrimoniale, quindi questo... Cioè, ma non ti sei sposato ancora, Giorgio, scusami. No, certo, no. Ma sarei secondo Feltri... No, io sono sposato da una vita, allora, felicemente sei... sposato. Sarei, però secondo Feltri sarei in età prematrimoniale. Prematrimoniale, sì, cioè significa che solamente a 70 anni uno capisce in realtà se si può davvero sposare o no. Guardi, io penso una cosa, io bisogna discutere di che cos'è l'Expo. Io penso che l'Expo sia un'operazione completamente sbagliata ed è la vetrina del peggio del paese. Sa qual è l'unica vera differenza? Ma è il peggio. Sì, sì, il peggio, perché sono per le cui se ci fosse se ci fosse una bella contestazione, secondo me sarebbe una bella cosa. Un'occupazione permanente dell'Expo. Sarebbe una bellissima cosa. Questo tutto bloccato, tutto bloccato. Per discutere davvero di che cos'è la questione del cibo, visto che sì, vabbè, lì hanno chiamato i vampiri a guardia del sangue, perché ci sono il McDonald's, davvero, McDonald's e tutto il resto. Ma quello è per fare cassa, Cremaschi, per fare cassa, bisogna prendere i soldi da qualche parte. I soldi ce l'hanno quelli. Prendere i soldi. Solo il padiglione Italia, lei lo sa meglio di me. Sì, lo so, sprechi. Costare 60 milioni di euro è costato 90. Io dico solo una cosa, che pagare tutti quelli che ci lavorano lì regolarmente a tariffa sindacale minima, cosa che non viene fatta, sarebbe costato 8 milioni di euro. Quindi solo il sovraccosto del padiglione Italia è tre volte, quasi quattro volte quello che si sarebbe speso per pagare con giustizia tutti quelli che lavoreranno e la faranno. Lei costruire. Ha scritto una cosa. Va detto questo. No, aspetta, lasciamo perdere l'Expo, non me ne frega più niente. È un discorso troppo lungo. Ma allora siamo d'accordo. No, non siamo d'accordo. Però alcune cose le condivido. Guardi, la cosa di Mussolini e Renzi. Ma mi faccio dire questo. Dimmi. Sa qual è l'unica vera differenza rispetto a qualche anno fa? Che tutte queste cose, inaccettabili per una parte di noi, almeno allora? Per me, una volta le faceva Berlusconi, adesso le fa peggio Renzi. E questo cambia tutta l'Expo, la L'Expo non è di Renzi, l'Expo è di tutti i governi da quello di Berlusconi in avanti. Sì, ma una gestione di questo tipo... Mi permetta. Scusi, lei ha detto che tra Mussolini e Renzi non c'è nessuna differenza. No, io non ho detto ma questo. Come no? Ho citato, ho detto che Renzi sta usando gli stessi strumenti e le stesse modalità con cui è andato al potere Mussolini. Poi come userà ma questo capito, potere ma io ancora non lo so e spero che non lo usi allo stesso modo. Scusa, ma devo dire c'è lo stesso principio. La legge elettorale è praticamente la stessa legge del 23, la legge Acerbo. Ma hai parlato di fascismo, cioè secondo te Renzi è un fascista? Renzi è modernamente sta costruendo un sistema autoritario dove se anche lui non è un fascista domani che arrivasse un fascista se lo trova già tutto preparato, un fascista vero, quello per capire come si dice a Brescia, quello con i gambali non avrebbe bisogno di fare ma niente dai, perché si trova tutto il sistema istituzionale piegato al suo volere. Non lo dico solo io peraltro perché non sono un costituzionalista. Cioè la differenza tra Mussolini e Renzi è esagerare un'antichia proprio. Io, Renzi ha messo in discussione radicalmente il fascismo, diceva Primo Levi, non si ripresenta mai allo stesso modo, in ogni epoca si presenta questo in modo è un nuovo diverso. Fascismo è un nuovo fascismo, questo è un nuovo autoritarismo, è una democratura. Vabbè, ma come dillo esplicito, dillo esplicitamente. Questa è una forma è la forma che più si avvicina allora a bisogna però, scusa, però bisogna se, il Parlamento, se allora. È così allora bisogna prendere d'assalto, bisogna andare assediare. In montagna a prendere i fucili, resistere. Finché non li prendono loro i fucili non vedo perché si devono prendere noi. Ma se Renzi è considerato un autoritario per me sì, c'è una nuova resistenza da fare assolutamente, con le armi. Questo è un sistema intanto una resistenza civile, sociale, ma non si può morale. Dipingere Renzi come un nuovo duce, dai, è una cosa ridicola, patetica. Sei come Brunetta, dici le stesse cose di Brunetta, il fascismo capito, di Renzi. Ma Brunetta le dice perché è all'opposizione, quando era al governo le faceva anche lui. Ho capito, ma stai dicendo le stesse cose che dice Brunetta, è una parodia, è una cosa patetica, ridicola pensare che due riforme di cui non sapremo ancora bene l'applicazione eccetera portino al fascismo, dai su, ma no, non è possibile. Non ci se ne accorge mai, mi permetto di dissentire, non ci se ne accorge mai quando avviene. Vabbè, può darsi. Non ci se ne accorge mai quando avviene, e quando ci se ne accorge di solito è troppo tardi. No, ma scusami, io dico solo che qui si stanno mettendo assieme tutte misure di carattere autoritario. Benissimo, poi noi diciamo, siccome Renzi è buono, si dà in mano. Ma no, Renzi è buono, che è autoritario. Renzi è buono, ci vuole qualcuno che decida a un certo punto. Abbiamo per anni detto. Vabbè, ci voleva anche uno che faceva andare i treni in orario, è la stessa discussione. No, vabbè. Ci voleva uno che fa arrivare i treni in orario. Vabbè, ciao Giorgio, ciao. Allora ragazzi, andiamo a sentire Leonardo dalla provincia di Foggia. Signor Leonardo, vai Leonardo. Leonardo? Pronto. Vai, dimmi. Pronto. Dimmi. Riguardo al fatto di ieri questi nomadi, questi zingari. Che c'è? Volevo dire a signor Parenzo, lui che è veneto, Salvini ha sentito queste parole che ha detto lui, il 5 per 1000. Sì, vuole dare il 5 per 1000 alle associazioni pronomadi, allora? Scusi, ma se noi ci troviamo in quella zona, da dove vengono tutti questi nomadi, tutti questi zingari qua? Ci danno da bere, mangiare, ci assistono, ci danno case, ci danno quelle vogliono la casa, non lavoro, vivo di esperienti. Sì, vabbè, Leonardo, sento male. Marco da Milano, vai, Marco. Marco? Marco da Milano, bene. Marco? Pronto, ciao, Cruciani. Sì, sono qua, mi senti? Sì, dimmi. Ok. Allora, ciao. Dai, non lascia perdere i saluti. Vabbè, ma ne ho insegnato l'educazione, voglio salutare e saluto. Ascolta, volevo parlare con Parenzo e volevo dire una semplice cosa. Sì, se per caso nel suo condominio, quello del terzo piano, tutti i giorni arriva a casa con la refurtiva rubata, quello del primo piano manda le figlie a rubare e a fare le mignotte. Chiama la polizia. E allora perché quando è andato nel campo Rom non ha chiamato la polizia? Perché di quello che ho capito lei è stato ospitato in un campo Rom? No, ospitato. Un momento a chiarezza. Chiarezza. No, guarda, no, una cosa, sto facendo un discorso serio, non voglio buttare né sulla risa. Allora? Il preda all'alcol, le spiego. Chi? Io sono astemio, cosa stai dicendo? Beh, non sei. Vabbè, la chiarite dopo questa cosa qua, se sei astemio, se non sei astemio, se hai bevuto, se non hai bevuto, perché Parenzo doveva chiamare la polizia, è andato a lavorare là in un campo a Roma, ha fatto un servizio. Ci sentiamo dopo il GR, ciao. Cruciani, si deve vergognare, siete vergognosi, ma voi state delirando. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Tu non dai un buon esempio. Tu sei forte coi deboli e deboli coi forti. Allora siamo qui 800 24 00 24, mito Ugo da Taranto, già diventato un mito per molti ascoltatori della Zanzara, contro Vittorio Sgarbi ieri sera. Sentite. Vabbè, Vittorio, rispondi tu, per favore. Ma Ugo, che devi rispondere? Vittorio, non mi di parlare con Vittorio Sgarbi, non frega niente. Tu me l'hai detto, chiamalo. Sì, Vittorio. No, bugiardo, l'hai dovuto chiamare tu per fare odio. Vittorio, io, no, con ma... te che lo inviti, non con Vittorio. Guarda, ma io Vittorio fa bene a venire. Aspetta, fai... Io sono invitato ovunque. Esatto. Vado da qualunque parte. E no, bravo, infatti non sono con te. Vittorio, io non sono con te. Stai zitto, Stai zitto. Per una questione che riguarda senza stipendio. L'ho detto mille volte. Vabbè, lascia perdere, non entrare nel dettaglio. Dice delle coglionate, si dimentica che sono condannato Pasolini, Caravaggio, Gesù, vada a darvi al culo. Questo imbecille, cretino. Allora, qual è la discussione? Che Ugo da Taranto è intervenuto. La discussione. Chi ha ragione? Ugo da Taranto che dice è un condannato, eccetera, e non può essere invitato? Oppure Sgarbi? Questa è la grande questione, il grande sondaggio della Zanzara. Ha ragione Ugo da Taranto? Mi sembrano quelli di Libero, con tutto rispetto per il quotidiano Libero. Oppure ha ragione Sgarbi? No, per Caravaggio, ma cosa ha condannato il buco del culo? Sei stato condannato in casa tua. Condannato a nulla. Ma non sei stato, a nulla. A nulla. A nulla. Tra l'altro, non capisci un cazzo neanche di arte, perché sei stato uno di quelli. Vabbè, avrei condannato, la facciamo. Ascolta, io a te. Bravo. Bravo. Ti chiedo €1 milione perché la mia professionalità la conosco tutti. Bravo. Bravo. Bravo. Ma tu stai dicendo sei un calunniatore? Non ce l'ho con te, ce l'ho con quelli che ti invitano. Sei una grande mostra. A Bologna, la signora Fabrani, falla vedere, studia, recensito sul Corriere come la più bella voce in Italia. Sei stato condannato, ti chiede pareri. Ignorante. TG3, vai, titoli. And now, the headlines, news, channel 3. E adesso, i titoli del TG3. Da domani a Milano l'esposizione dedicata alla crescita sostenibile, una sfida per ridurre gli sprechi alimentari, 10 milioni di biglietti venduti. La protesta delle scuole di Milano contro l'Expo, lanciate uova e vernice contro negozi e banche, ma gli studenti contestano gli antagonisti. Alla Camera passa anche la terza fiducia per l'Italia con 37 dissidenti PD. Lunedì il voto finale, opposizione e minoranza PD forse fuori dall'aula. A marzo la disoccupazione risale al 13%, tra i giovani supera il 43%. L'Istat, servono mesi per vedere gli effetti del Jobs Act. La Corte Costituzionale boccia la norma Fornero che bloccava per 2 anni la rivalutazione delle pensioni, può costare 5 miliardi alle casse pubbliche. Viaggio del TG3 nei villaggi di montagna del Nepal, ancora in attesa dei soccorsi, qualche miracolo e tanta disperazione, ora a fare paura sono le epidemie. Manifestazioni in tutta l'America per l'ennesimo caso di violenza della polizia contro un ragazzo nero, secretata per ora l'inchiesta sulle responsabilità. andiamo subito con Lucia, provincia di Genova. Vai Lucia, 800240024. Lucia, vai. Salve Cruciani, volevo dire una cosa, a parte il fatto che io sono convinta che parte di questi no Expo che hanno sfilato stamattina andranno a vedere l'Expo e vanno pure a mangiare da McDonald's. Può essere, può essere. Ecco, perché sono i ragazzi che vanno da McDonald's. Vabbè, allora? No, non è che ci vanno tutti da McDonald's. Cioè, non è che ci vanno tutti, dai. Tutti, certo, non bisogna generalizzare. Non sono d'accordo e non mi sono piaciute le parole cremaschi. Posso andare a casa sua a spaccare i vetri di casa e incendiargli la macchina? No, che vai, dice? Vai, vada a casa sua. Se mi danno l'indirizzo ci vado. Magari le do l'indirizzo, sì. Cioè, magari le do l'indirizzo. Diamo l'indirizzo di casa di Cremaschi, così uno può andare tranquillamente lì, imbrattare, sì. Dice vabbè, lo faccio in nome della... Dimostrare che non sei d'accordo di questo, con questi discorsi. Glielo do l'indirizzo, Lucia. Roberto da Milano, vai. Ciao, sono Roberto. Dimmi. Senti, io non credo, mi avete fatto tanto ridere con la storia del karma l'altra sera, del terremoto in Nepal per gli animali. Sì. A me questi ragazzotti, bimbi minchia di oggi, mi fanno solamente ridere. Io vengo da una storia di estrema destra, per cui le pugne per noi hanno ben altra cosa. Ma che c'entra, scusa? Ma io mi auguro solamente una cosa. Stasera a Milano si sta addensando dei nuvoloni neri, neri, neri, neri. E io spero tanto che tra stasera e domani, ma venga giù tanta di quell'acqua. E magari una scossa 2-3 di terremoto, non tanto forti, ma per fargli almeno tremare. Ma chi? Tremare chi? Chi deve tremare? A questi signori dell'Expo. Io ci abito a 500 metri. Ma questi signori che vuol dire? Distanza. Chi li organizza? Chi fa le manifestazioni? Ci hanno mangiato, ci hanno colluso, ci hanno fatto di tutto qua dentro. Vuole il terremoto? Ma tu, non voglio la follia umana ormai. No, non voglio il terremoto. Ma due o tre scossettine che le facciano. Ma che vuol dire le scossettine? Spiegami. Ma lei è un idiota patentato. No, guardi, lei deve stare attento. No, lei deve stare attento a quello che dice, perché lei è un idiota patentato. Perché se lei dice che ci vorrebbero due scossettine di terremoto per quelli dell'Expo, è un idiota. Ecco. Ma spero che anche Cruciani sia d'accordo, spero, sul terremoto. Non c'è bisogno, dice che ci vogliono due o tre scossettine. Roberto, tanto è vicino a casa sua. Ma per si cui... spaventano, che si spaventano solo che la festa non sia così... Come ha detto il nostro ministro, no? Cioè tu che dici, per evitare che sia una non festa sia disturbata, che la nostra festa invece non dovrebbe, sia invece dovrebbe arrivare una qualche scossetta, ma qualcosina, no? Qualcosina che si spaventino un attimino, perché che si ricordino bene che nostro signore verrà un giorno, disse una volta, verrà un giorno e quando entrò nel tempio con i mascalzoni amici di quel signore che mi dà dell'idiota. Cosa ha detto, scusi? Non ho capito, arriverà il giorno in cui? In cui, quando disse arriverà un giorno. Sì. E quando entrò nel tempio a rivoltare i tavolini dei signori che facevano commercio nel tempio. Qualcosa ha saputo. No, ma mi ha offeso, non ho capito cosa ha detto, gli amici di quel signore, cosa ha detto? Sì, gli amici di quel signore del tempio. Nel tempio non ci stavano sicuramente i miei. Cioè, non ho capito. Che lei mi ha dato dell'idiota. E dunque? Ma lei lo sa che Gesù era ebreo? Beh, allora. Ma lei sa che è veramente più, lei parla. Ma non la mettiamo, lei non è semplicemente un idiota. Ma posso dirle? Ma lei non è che idiota, no, è riduttivo. Non ho capito che cosa si augura lei. Non ho capito che cosa si augura, Roberto. Io non ho ancora capito. Oltre alle scossette per quelli che organizzano Ma io, infatti, la violenza sulle persone come quella di oggi, poi è Roberta. Per me è veramente Roberta. E invece cosa ci dovrebbe essere? Ma che si spaventino un attimino, le ho detto. Cioè, ma ho capito, ma lo spavento in che modo? Stasera, io sono a Milano, ma non me ne frega niente, vado a cena fuori, sto con gli amici, me ne fotto delle manifestazioni, dell'Expo, di tutto questo, vado a cena fuori con amici e me ne... Ho capito, tu vuoi il terremoto? Okay. Sinceramente, il terremoto a Milano no, ma da nessuna parte il terremoto. No, ma tanto il terremoto a Milano non è possibile. Cioè, tu ti auguri tanta violenza, questo è il punto. Violenza. No, assolutamente no. Io l'ho precisato. Vabbè. Roberto, ciao. Prima. Andiamo a Napoli, ciao. Angelo, vai. Beppe Cruciani, senti, io lo chiamo per questo. Premesso che io non condivido, diciamo, la violenza che danno questi ragazzi. No, ma tra l'altro hanno tirato questi coglioni, hanno tirato delle uova contro un tizio che aveva messo fuori la bandiera italiana. Appunto, cioè uova e bottiglia di plastica contro un signore che si era messo lì a tirare fuori tranquillo, giacca e cravatta. Borghese milanese, un signore della borghesia milanese che ha esposto la bandiera italiana, chissà per quale motivo, cazzi suoi, no, senza per insultare benvenuto ai capi di stato e di governo, ma oppure semplicemente, ma anche per i fatti suoi. No, per i fatti suoi è stato preso a, capito, a bottigliate, uova. Ma vi rendete conto della ridicolaggine? Non bisognerebbe nemmeno parlarne di questi quattro cretini che sono andati a manifestare. Magari ci sono delle ragioni, perché alcuni contratti di lavoro sono dei contratti ignobili, per carità. Sì, ma non di devastare le vetrine delle dei commercianti. Questi non sanno quello che fanno. Angelo, dimmi, Angelo. No, volevo dire, cioè, premesso che sono contro la violenza, questi ragazzi esprimono il loro disagio, però la vogliamo finire di smettere di prendere in giro questi ragazzi promettendo del lavoro gratuito, falso lavoro, con job act, con questi lavori a tempo, a 6 mesi, anche con 1.300 euro al mese. Ma come si fa a venire dal sud al nord, dove una monocamera vicino dove tu proprio sì, ragazzi, però al di là 500 euro al mese. Sì, d'accordo, però questi lavori prima non esistevano, cioè questi lavori che vengono offerti adesso prima non c'erano. Poi, per carità, non si può stare con 500 euro al mese, con 600 euro al mese. Ho capito, ma non li trovano a Milano questi ragazzi disponibili, per cui questi ragazzi disponibili vengono tutti quanti da fuori Milano, e per potersi procurare solo un'abitazione a Milano devono investire 2.000 euro, perché 3 mesi devono dare come piccione anticipato per potersi abitare. Fermo lì. Volevo dire che la Zanzara è uguale a Radio Padania. La Zanzara. Certe volte a Cruciani darei un pugno in testa per quanto mi fa incazzare, ma altre volte l'abbraccerei per le cose giuste che dico. Eccoci qui, 800240024. Marco, provincia di Torino. Dai, lo sai che un tizio del Partito Democratico a Napoli, candidato alle regionali, ha dato della zoccola a una senatrice di 5 Stelle, là, del Movimento di Grillo? Paola Taverna, no? Quella passionaria, eccetera, eccetera. Le ha dato della zoccola, quella si è incazzata, dice che lo querela, non vuole le scuse, eccetera, eccetera. Io dico una cosa, va benissimo, è da condannare assolutamente, questo è un deficiente, perché è ridicola questa cosa qua, dare della zoccola a qualcuno. Però diciamo che pure quelli dei 5 Stelle, siccome Grillo ha detto non si insulta così una persona, beh, insomma, no, da quelle parti non ci vanno leggeri. Per carità, va bene querelare, no, quello è un coglione. Un partito che è nato con un invito ad andare in un luogo dove non batte il sole. Cioè, un partito che è nato con col vaffanculo, con lo slogan del vaffanculo, sì, adesso sì, adesso sì, capito? Se la prendono, per cui uno dà della zoccola a una. Un partito che è nato così, cioè, ci sono partiti che nascono dalla resistenza. Per me è un coglione quello, è un imbecille. Ci sono anche partiti che nascono dalla fiamma di Mussolini, no? Ogni partito ha la sua storia, Democrazia Cristiana, lo scudo crociato. Quel partito là, invece, è nato da un'altra cosa, cioè dal vaffa è nato quel partito. E adesso si inalberano per. Ma dai, tu, dai. Allora, Marco, provincia di Torino, dai. Sì, ciao Cruciani, ciao Paolo. Dimmi. Sì, ciao, io volevo parlare per quanto riguarda l'Expo, perché ho sentito quel vostro ospite precedente, che secondo me era uno stupido, e uso una parola leggera, sì, a dire che l'Expo non serve a niente, non serve a nulla. Io sono qui a Milano, io vengo da Ivrea, sto aiutando dei clienti a lavorare dei pezzi per l'Expo, e mi è veramente venuto quasi da piangere a pensare gli insulti a decine di migliaia di persone che hanno lavorato per quell'opera che dovrebbe darci lustro, e che poi c'è qualche pirla che denigra e via. Ecco, quella è una cosa veramente che mi ha fatto. Vabbè, ma però c'è anche il diritto di criticare l'Expo, adesso, per carità, lei ci lavora, sicuramente si fa il mazzo, per carità, però c'è anche il sacrosanto diritto, non di criticare i lavoratori, chi ci fa affari, eccetera, eccetera, chi ci guadagna, c'è il sacrosanto diritto di criticare come è stato preparato, le lungaggini, gli sprechi, i ritardi, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo visto, poi magari sarà una cosa meravigliosa, questo è. Il problema è che le lungaggini sono venute fuori per motivi tipicamente politici, di persone come queste che hanno sempre dato tutto contro, e ci ritroviamo il 30 di aprile alle 19 rotti a cercare di recuperare il tempo perduto per fare bella figura con il mondo, che sono sicuro che noi faremo bella figura. Sì, no, vabbè, lo capisco. Mino da Bari, vai, Mino da Bari. Ciao Cruciani. Dimmi. Volevo dirti semplicemente che per quanto riguarda il discorso di quei ragazzi che hanno protestato, mi sembra ovvio, cioè sono d'accordo con te nel dire che sono dei coglioni e lo capisco, però hanno protestato e hanno espresso tutta la loro rabbia e frustrazione per tutto quello che viene in Italia. Del resto 200.000 stronzi che ogni, non lo so, domenica quando si gioca a calcio fanno casino allo stadio, si picchiano, si insultano, si ammazzano, non credo siano molto meglio, tanto meglio di questi ragazzi qua. Ma chi ha detto che sono meglio? Cioè, io ho semplicemente detto che bisogna essere dei cretini, degli imbecilli per andare in giro per strada a imbrattare le vetrine, a sfasciare le vetrine di un'azienda. Di un'azienda. Io dico dei criminali, ma no, pare, ma che criminali? Dai, perché lanciano due pietre criminali? No, scusami, ma se dai, tu allora sbracchi una vetrina o imbratti una vetrina, anche sei un criminale, sì. Cioè come un crimine per sì, me. Poi tecnicamente dopo. Sì, sono perfettamente d'accordo. No, tecnicamente, però. Perché se tu vieni sotto casa mia e mi imbratti casa, se ti becco devi correre 40 metri perché mi posso anche incazzare, ma come minimo chiamo la polizia. Corro bene, sono veloce, non è quello il problema. Il problema è che loro esprimono adesso la loro rabbia, poi se lo fanno nel portone di casa mia è chiaro che mi incazzerei pure io, però obiettivamente loro hanno espresso la loro rabbia. E spacchi la vetrina di un altro lavoratore. Io ho già detto che sono, ho detto già che sono dei coglioni, li capisco. Il loro gesto alla fine. Ma guarda che te lo dice uno che è notoriamente di sinistra, come ricorda sempre Cruciani, te lo sta dicendo uno che è di sinistra, qual è il sottoscritto, come ricorda sempre Cruciani. Va bene, Nino, non c'è, per queste cose qui non c'è giustificazione. Paolo da Catanzaro, vai, Paolo. Sì, pronto. Dimmi. Niente, volevo dire che non so cosa deve succedere più in Italia con questa politica che ci sta portando allo sbaraglio completo. E tutti questi scandali e questi non hanno avuto il coraggio di sfoltire e non lo dite il pubblico, quella burocrazia pubblica che c'è, che poi rende la vita difficile alle aziende e ai cittadini. Qua bisognerebbe licenziare mezzi impiegati pubblici. Vabbè, questo che c'entra adesso, Paolo? Non ho capito. Niente. Ecco, come niente, c'entra e da qui nasce tutte queste proteste, eccetera, che non è che giustifico. Ma le proteste non nascono da questo, le proteste nascono perché ci sono quattro imbecilli che vanno per strada a protestare contro le multinazionali, contro l'universo mondo, eccetera, e si vogliono sfogare un po', se la vogliono prendere con qualcuno, se la prendono contro la manpower, allora, se la prendono contro le banche, certo. Tutte cose ridicole, tutte puttanate, ma come sesquipedali. Hanno fatto delle regole per rendere il lavoro flessibile, far venire investitori esteri che sono venuti a prendere i brand, licenziano le persone e se ma le portano che via. Adesso questo è un altro discorso. Vabbè, ciao Paolo, ciao. Allora ragazzi, divertiamoci un attimo, che sennò mi rompo i coglioni con queste discussioni, il lavoro, l'Expo, le manifestazioni, eccetera, eccetera. C'è stato un terzo caso ad Alessandria di una messa per Mussolini, Lo ha celebrata Don Gianni Torigia, proprio una messa, accolti i fedeli. Andrebbe sospeso a divini. Ma no, lo so, non esagerare adesso, su. Va bene tutto ormai. Dai. Comunque, nel Duomo di Alessandria, davanti a un piccolo gruppo di persone. Da un piccolo gruppo di? Di persone, Sono stati presi i nominativi? No, gli italiani di Alessandria ricordano il sacrificio di Benito Mussolini e dei 300.000 caduti della Repubblica Sociale Italiana, così recitava il manifesto, sai quando si mette. È della Repubblica Sociale Italiana? Sì, della Repubblica Sociale Italiana. Insomma, ci sono stati diversi casi in giro per l'Italia, a Reggio Calabria, come abbiamo visto ieri, poi anche ad Alessandria, un altro caso a Vicenza, eccetera, eccetera. Fermateli. No, c'è stato di più, il vescovo si è incazzato, il vescovo di Alessandria, no? Meno male. Però, il signore, lui invece è rimasto sulle sue posizioni, il parroco, il signor Gianni Torigia, ha detto no, ma in fin dei conti, no, bisogna onorare tutti i morti, la Chiesa non può fare distinzioni. Ma sai che l'ha chiamato il Papa? Non è vero. Sì, il Papa ha chiamato Don Gianni Torigia. E tu come fai a saperlo? Ma qui arriva tutto, amici miei. Arrivano delle. Sei il SISBI. Ma sono il ricettacolo di tantissime intercettazioni. Arrivano nastri. Ma sarà una polpetta avvelenata, guarda. Ma quale polpetta avvelenata? Il Papa chiama Don Gianni Torigia, un prete di Alessandria che ha celebrato una messa per Mussolini. Io credo lo abbia chiamato per rimproverarlo. Credo. Sì. Pronto, buonasera, Gianni Torigia? Dica. Buonasera, salve, sono Monsignor Franchi della Segreteria Vaticana. Le posso passare il Santo Padre che vorrebbe conferire con lei? Come? Ma... Buonasera. Ma lei scherza? No, no, no, no, non sto scherzando. Le passo il Santo Padre che vuole conferire con lei. Attende in linea, grazie. Pronto. Pronto, pronto. Pronto, buonasera Don Gianni. Con chi parlo? Sono Francesco, Don Gianni. Disturbo? Ma, no, no, affatto, dica, dica, dica, per la santità, dica. Don Gianni, io ho saputo della messa in suffragio dei Mussolini e vorrei capire il perché. È venuta da una persona chiedendo la messa per civili e militari della Repubblica Sociale per Benito Mussolini. Ma chi sono queste persone? Non lo so chi saranno. Quando uno vi chiede la messa, io non chiedo la carta d'identità, ecco. Non me l'hanno chiesta, ma tutti gli anni l'hanno già celebrata anche in altre parrocchie. Ma vedi, Don Gianni, la Chiesa prega per tutti i morti, sì, indistintamente. Infatti. Però questa messa si presta a strumentalizzazioni. Mussolini, ecco, è una persona che ha ucciso tanti innocenti. Sì, sì, ma questo è che loro l'hanno strumentalizzata, altrimenti io non ho accettato così come suffragio. Ecco. È stata una mossa imprudente. Don Gianni, te penti di questo? Sì, sì, è questo. E certamente chiedo scusa, ecco, sì, sì. Perché la politica deve restare fuori, sì, infatti, noce alla Chiesa. Sì, infatti non era un gesto politico, ecco, non, da parte mia non lo era affatto. Io te credo, Don Gianni, l'importante è che ci sia pentimento e se sei pentito preghiamo insieme un'Ave Maria. Va bene, va bene. Ave Maria. Piena di grazia. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Don Gianni, spero che da ora in poi sarai più prudente. Sì, sì. Grazie, grazie, grazie. Che il Signore te benedica. Grazie, che la Madonna, grazie, ti custodisca. Grazie, grazie, grazie. A presto, Don Gianni. Grazie, grazie, grazie. Ah, possiamo dire una cosa, cioè, possiamo dire che di fronte al Santo Padre calano le braghe, però, diciamola tutta, di fronte al Santo Padre. Che deve fare, scusa. Beh, chiama il Papa e dice: vai con me, ti vuoi pentire? E quello però subito. Se ti chiama anche a te il principale. Ma che? Il principale gli rispondo. Se penso di avere ragione, capito, mi confronto. Adesso, se io penso di avere ragione, rispondo anche davanti a. Ma non è il Papa. No, ma se mi chiama Napoletano, io. No, io dico: hai noi sbagliato, se ho ragione parroci. Io. Ma che c'entra? Noi siamo dei parroci di provincia, no? Noi, dei parroci. Capito, ragazzi. Dai su, ma non si può. Un parroco io. Ma questo è calare le braghe, dai su, calano le braghe. Anche a te se ti chiama il principale. Ma però. Quando mai? Io non mai. Ma che dici? Sei pazzo? Te vorrei vedere, guarda. Ma va. Ma ti giustifichi, dici no, boh, forse non dire stronzate. Dai, Angelo da Brescia, vai, Angelo. No, vabbè. Cusani. Dimmi. Ho visto stasera quell'uomo lì ucciso 91 anni lì. Chi è? E altra cosa, per cui è successo anche a un mio amico di 84 anni. Io dico. Ma dove? A Terni? A Terni dici? Sì, quello di Terni. Quello di Terni che è stato. Quello di Mirandola di Modena. Sì, che è successo? 84 anni l'hanno distrutto la faccia, no? Ah, che i rapinatori che sono entrati dentro casa, sì. Allora? Come sono già parecchi che uccidono la gente, donne, uomini e tutto. Io ho fatto sempre il tiro al poligono così, no? Però ti giuro che se mi dovrebbe capitare che arrivasse qua qualcuno, sì, mi dispiace, è meglio un brutto processo che un bel funerale, ma io lo stendo. Perché la legge non c'è qua a casa mia quando arriva quello lì. Mi fanno le feste natalizie a me e quello poi dopo 10 anni esce fuori. Mi spiace, stanno a casa loro, vanno a lavorare, facciano quello che vogliono. Io se arriva dentro uno che vuole farmi le feste io le faccio io, sicuro per loro. E i buonisti, ti do un consiglio erotico, vanno a via il culo, Ciao Cruciani. No, aspetta, Angelo, dove vai? Fermo, fermo, lì non ho capito. Tu che pistola hai? Angelo, che... non è Angelo Parebianco. No, che fucile hai? Non ho capito. No, ho fucile e pistola, non è un problema. Sì, ma quante armi hai a casa? Beh, adesso questo è un problema che me lo tengo per me. Ma che te lo devi mettere? Chiami. Sono tutte denunciate. Vabbè, ma questo lo do per scontato che siano tutte denunciate. Appunto, no, noi. Ho capito. Non mi permetto di tenere un'arma, Angelo, diciamo così. Ma cosa sai usare meglio, la pistola o il fucile? Cioè, come preferisci? No, tutte e due, perché io ho fatto il piattello, sono andato a caccia, adesso non ci vado più perché i cani mi sono morti e io ho finito la caccia con i cani. E ho fatto tanto poligono di tiro. Cioè, per cui se entrano dei ladri a casa tua, tu la prima cosa che fai è spari? No, se faccio a tempo, sì. E se no la pistola, secondo me, onde evitare che mi faccia qualcosa di diverso. Ma io non ho capito, tu usi meglio pistola, fucile, cioè dove li tieni? Ma in casa il migliore sarebbe la pistola, è più piccolina, hai la possibilità di agire meglio. Più, più rapida, sì, effettivamente più rapida. Più rapida. Però non gli sparo da mutilarlo. Gli sparo nei coglioni. Ah, spari di... non razza più e non può più danni. Ah, spari nei coglioni così direttamente. Sì, sì, non sbaglio mica, guarda. Se ho appena un attimo, io dove tiro so dove sto tirando. Ma come fai, scusa? Ma è difficile, è difficile sparare nei coglioni a qualcuno direttamente, non è facile. No, non è difficile. Perché io ho fatto, diciamo, una specie di percorso di guerra con le sagome così. Quando sparo so dove devo tirare. Ah. Vabbè, hai comunque. Sai com'è che il bambino, cioè, tu donna... sai, se entra un ladro, sei capace di sparargli nei coglioni? Ah, quello sicuro, perché quello lì che viene dentro di notte a casa mia, se me l'accorgo, perché qui il problema è. Beh, il problema è accorgersene, certo. Il problema è accorgersene. Sì, quello lì. Ma se me ne accorgo, quello rimane senza i cosiddetti zebedei. Senza gli zebedei, capito, no, Lorenzo? Ma è gente normale, è l'Italia vera. No, fermati, fermati. Non chiosare dicendo è gente normale, almeno. No, almeno perché? Che c'è? No, almeno risparmiami questo. Dai, ma è gente normalissima, è gente che devi sentire ogni giorno. Sei lontano normale, da questo mondo, tu. Momento, sei là nella tua casa di Prati, nella tua casa di lusso, nel tuo agio. Non ci sono persone che vengono a rubare lì. Angelo vive in campagna, a Brescia, vicino a Brescia, ha paura. E vuole sparare, lasciamolo sparare. Sono venuti i ladri anche della zona. Ma che ogni ladri, volta, quali quindi conosco perfettamente. Beh, cioè, ladri saranno ladri chic, saranno, dai. Ma perché i ladri dove vanno? Saranno ladri chic, così. Dove abita la gente, no? Non ma è sì, che vanno, capito, dove dai, vanno, abita la gente. Vabbè, no? Non è gente che stupra, che va nelle ville, che ammazza i vecchietti, che li butta per terra, ma come è successo a Terni. Perché tu dove stai, scusami? Ma io sono in una... ma mica... Perché tu stai in una bettola, non ho capito. Ma assolutamente no. Questa idea pauperista per cui ma assolutamente tu no. Tu stai, no. Hai addirittura un castello in Umbria. No, quindi vabbè, basta cazzate, basta cazzate. E io pubblicherò le foto del tuo castello in Umbria da lunedì. Ma quale da lunedì del castello in Umbria. Ma io non faccio questo discorso pauperista, ti dico semplicemente, è finto pauperista tuo, io dico semplicemente, almeno non dire che è normale, no, non dire normale. Che è normale che un signore... Angelo, tu ti senti normale, Angelo? Sicuramente sì, intanto sto parlando di me stesso e so, io ho 68 anni, non sono né rimbecillito né niente come quello che è vicino a te, quello di parla ma non sa nemmeno cosa sta dicendo. È tutto perché da dimostrare. Intanto, io ho fatto il militare ai confini dell'Jugoslavia, a Cuneo, e poi sì. Faccio il sostegno di una mezza guerra. Va bene? Che hanno preso il nostro militare, gli hanno tirato via il fucile e balle varie. Vabbè, hanno adesso... dato là, ho messo a cordello la loro tutto, ma l'unica certo. Cosa che non va bene è dire che è normale che un signore chiama in una radio molto molto ascoltata e dice tranquillamente che sente delle persone in casa e gli spara nei coglioni. Questo io credo, al di là di tutto. Ma è normale, ma se lui anzi fa un regalo, perché invece di sparare in fronte dice gli sparo nei coglioni. Giusto, Angelo? E poi non è normale che il conduttore chiosi le parole di uno che non è normale. Questo, Angelo, ma me... tu sei sicuro di poter prendere i coglioni? Sicuramente. I primi sarebbero quello lì di quella specie di sotto specie che hai lì vicino. Ah, vabbè, ho capito, adesso vuoi sparare a Parenzo nei coglioni? Aspetta. Come lui porta la pasta ai ladri e agli assassini, la prima rimoverata dovrebbe tirarla a lui. La legge, la giustizia, come dice lui, non esiste, perché quando ti trovi tu o tu con quello lì, che non sai che intenzioni ha, visto che ha aperto la porta di notte mentre la gente dorme, quello lì, Parenzo, ma di che va in Israele? Ma che c'entra Israele? Fermo, 30 secondi. Monellacci. La Zanzara. Allora, Angelo, pronto? Pronto con l'arma? Sì, sì. Dimmi. Pronto con l'arma? Ah, è pronta l'arma. Pronta l'arma, eh? Lucidata, è tutto bello a posto. Volevo dire... Ma dai anche delle lucidate tu alle tue armi? Le tengo oliate, lucidate, perfetto. Beh, quello per forza. Perfetto, bisogna. Certo. Perché no, perché con l'acido delle mani, se non le pulisci bene... fa la ruggine, va via la pronunciatura. Ho capito, che volevi dire, Angelo? Che volevi dire? C'ha la ruggine in testa. No, volevo dire una cosa. Io vorrei che qualcuno capisse qualcosa, ma che capisse però. Io sono a casa mia, non vado a disturbare nessuno, non ho mai rubato, non ho mai fatto niente. Mi arriva uno in casa, o due o tre, come è successo al mio amico a Modena. Sì. L'hanno massacrato. Adesso sento quel povero vecchietto lì, 91 anni, morto. L'altra signora là, morta. L'altro morto. Ma dica un po', ma quelli lì, perché non stanno a casa loro? Vanno a cercare il freddo per il letto, lo trovano. Se, è inutile che poi mi vengano... Io ho sempre detto, è meglio un brutto processo che un bel funerale. Crepi tu che sei venuto a rompermi le balle a casa mia. Io non vado a rompere le balle agli altri. Ciao Angelo, ciao. Ciao, ciao. Luciana da Padova, Luciana? Sono qua. Ma sei la Luciana? Luciana? Sono la Luciana Doc. La Luciana Doc. Ma non dovevi sparare, Lucia? Ho già sparato. No, ma non hai sparato in trasmissione, dovevi sparare. No, in trasmissione non ho sparato perché ho detto che può essere, siccome viviamo in un mondo di M, no? Di merda. E allora può anche essere, l'ho detto anche a Riccardo. Sì, Riccardo, certo. Chi è Riccardo? Che qualcuno. Riccardo Poli. Riccardo, sì. Il vostro. Ah, l'ho detto anche a Riccardo, allora? Poli, meraviglioso. Allora? Certo, è molto gentile, molto simpatico. Molto, certo. Vabbè, non ho capito allora, Luciano. Ma molto più di Parenzo, sì. Molto più di Parenzo. Ha rovinato Riccardo Poli per sempre, poveretto. No, Parenzo, gli voglio fare una domanda. È riferito a quello che ha detto il signore. Senti, Luciana, hai fatto la polenta taragna oggi? L'hai fatta? No, tesoro, non l'ho fatta. Hai domani, fatto la calzetta? Domani ho 12 persone a pranzo. Ho già bravo, allora, senti, invece di rompere i coglioni, vai in cucina, stendi la pasta sfoglia e comincia a cucinare. Non ho previsto di fare la pasta sfoglia. Oppure metti delle pallottole dentro i tortellini. No, come no, fai ho previsto un'altra cosa. Metti delle piccole pallottole dentro i tortellini. Sì, ascolta Parenzo, ma ascolta, il signore prima di me ti ha chiesto, no? Sì. E te lo chiedo anch'io. Ti arriva a casa uno di notte, te lo trovi in camera, tu cosa fai? Tu, ho messo tu, l'allarme, Parenzo, doppio cos'è allarme che fai ho messo. Tu? Doppio allarme. Sì, ma allora se tutti quanti, quelli che hanno l'allarme, non avessero i ladri, vanno lo stesso. Allora spiegami perché. Cosa ma io ho paura ad armarmi, io non mi armerei mai. Io voglio sapere cosa tu faresti se te lo trovassi in camera. Ma sarei terrorizzato ovviamente, no? Genio di un genio. Ah, sei di quelli che subiscono te, sì, ho capito. Ma io non subisco niente. Luciana, se non io non ho capito. A fare in culo. Comunque io ho chiamato per un'altra cosa. Aspetta, Luciana, però tira fuori sta pistola adesso, basta chiacchiere, dai. Ascolta, no, io ho chiamato perché volevo dire che lancio spezzo una lancia a favore di quei ragazzi, non il no global, e neanche quelli che sono e perché pochi. Aspetta un attimo, adesso fra poco me lo racconti, abbiamo la pubblicità, vedi, senti sta rottura di coglioni di musichetta che fra poco la farò togliere, d'imperiola, questa rottura di cazzo inaudita di questa musichetta sotto che fra poco la faccio togliere, fra poco verrà tolta, non vi preoccupate, questo è il segnale che dobbiamo dare alla pubblicità. 800 24 00 24. La zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. La zanzara. Amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Siamo qui a 800 24 00 24. Allora, Luciana da Padova, la nostra cara amica Luciana da Padova, io voglio capire una cosa però, Luciana, adesso tu perché sei solidale? No. Con chi sei solidale? Non ho capito. Scusami un secondo. Che c'è, Parenzo? No, voglio dire questo, scusami, poi subito Luciana, perché riguarda Luciana. Una volta le nonnine, negli anni passati... Ma non è una nonnina, quanti anni hai, Luciana? Aspetta un attimo, aspetta. Le nonnine telefonavano alle radio e davano, che so, le ricette dei tortelli alla zucca, oppure le ricette delle lasagne. Ora, le nonnine padane telefonano per spiegare come si spara. Capito la differenza dei tempi? Nonnina padana. Nonnine... Una volta dicevano, guarda, per fare i ravioli devi tirare la pasta, poi mettere il ripieno con la zucca. Ma quali ravioli? Ma cosa dici? Che io ho lavorato tutto il giorno, ma cammina, passami Cruciani. No, sono qui Luciana, non ho capito. Tirami Cruciani fuori sta pistola. Ma voglio... non sei neanche degno di... Sciacquati la bocca prima di parlare. Allora, dunque, volevo dire Cruciani, non sono solidale con i ragazzi in no global, no, assolutamente, e neanche con quelli che fanno vandalismo, perché io farei come quella donna americana, quella signora mamma americana, brava, che ha schiaffeggiato il figlio avanti e indietro. Ah, ecco, però lo ha preso per il bavero e lo ha riportato a casa, no? Bravo. Infatti io sempre no, farei così, non è che ho sempre fatto così, non ce n'era bisogno che mi fili. Però voglio dire una cosa sul fatto del andare a lavorare volontariato. Hanno chiesto più di 2000 ragazzi che facciano volontariato all'Expo al Food. Vabbè, no, succede sempre per le grandi manifestazioni di chiare. Ma ascoltami una cosa, tu hai sentito ieri sera, se non mi ricordo se era da Paragone o se non è un'altra trasmissione, non mi ricordo, che hanno detto che Farinetti per ogni azienda, ogni ditta che porta dentro l'Expo percepisce 700.000 euro di royalty. Allora io dico, sti ragazzi non sono mica dei coglioni, proprio coglioni, vero? Anche se sono piccoli, parlano, non sanno cosa dicono. Ma scusa un momento, allora questi devono andare a lavorare. Cioè tu dici, le aziende fanno grandi profitti mentre i ragazzi li pagano poco. No, le aziende, Farinetti, che non è neanche fatto, non hanno neanche fatto un appalto, niente, è entrato perché è amico del coso lì, di Renzi, Buffoncello lì. Beh, insomma, che non ci sia stato l'appalto, questo, che non ci sia stata la gara, questo è sicuro. Farinetti non quererà mai questa poveretta, perché il bulletto fiorentino, hai capito? Si mette tutti i suoi, fa guadagnare tutti e poi chiede che i ragazzi vadano a fare volontariato. Io sono solidale con i ragazzi, sono solidale, non che spacchino, che rompino, questo no, perché li prenderei a calci. Però in fondo, sai, si arriva a un punto che l'esasperazione, soprattutto nei ragazzi che non hanno tanto il cervello così, hanno gli ormoni, hanno questo, fanno presto ad attizzarsi. A questo punto io dico che quello che sta succedendo, non dico che io sia proprio favorevole, però un po' lo capisco. Un po' lo capisci. Adesso, sì, cara Luciana, vai a prendermi la pistola, vai di là in camera. No, ma non ti faccio sparare, però vammi a prendere sta pistola, dai. Sì, tanto ce l'ho qua vicino, ce l'ho in cucina. Ce l'hai in cucina, tirala fuori. Ce l'hai in cucina perché deve mettere nel ripieno, al posto dei cacciotti, mettere la polvere da sparo. Sai dove una volta si metteva su per la gallina, lasciamo stare. No, ma fammi sentire come batte sta pistola. Parenzo ha un'arte di tirare fuori da tutte le persone il peggio delle persone. Vabbè, ecco. Luciana, fammi sentire il suono di questa pistola. Da lei non c'è bisogno di fare molto, diciamo, viene già da solo. Ma cammina, va a letto, va, corri. Vai, Luciana, il suono della pistola, vai. Il suono della pistola è contro che cosa? No, contro il tavolo, battimela contro il tavolo, battimela. Sì. Fammi sentire. Sì, perché sai, in Italia siamo... No, ma fammi sentire, non sento un cazzo. Ma che è sta roba? Ma si deve sentire un rumore vero, un rumore forte. Rumore vero, tesoro, devo togliere la sicura e devo fare tante cose. È un casino, è un casino. E la poi sicura. Ti dirò che in Italia. Ma che pistola che è? Che pistola con le persone è? Che ci sono, sì, sì. Ecco, con le persone che ci sono, è facile che qualcuno dica che io induco alla violenza, no, cosa che non per è affatto vero. Per carità. Perché io non sono né violenta né niente. Però, come il signore che diceva prima, io me ne sto a casa mia, non vado a casa di nessuno, cioè nonostante e se entrano. E se volte. Entrano sparo, se entrano sparo. Ecco, hai capito? E questo lo dici se tu. Se entrano io sparo, hai capito? Perché io quando vado in casa degli altri suono il campanello, avviso prima di andare. Ma tu ce l'hai il porto d'armi o no, Luciana? Certo. Ma come mai c'hai il porto d'armi? Ce l'ho io, anche mio marito. Ma scusa, ma questo famoso polistirolo che dovevi prendere per farmi sentire lo sparo? Il polistirolo, perché se no guarda, fa un se tu lo fai da vicino così mi divento sorda per un po', non ci sento più. Meglio di no, meglio di no, meglio di no. Prima, comunque, prima o poi lo faremo questo esperimento, Luciana. Non parliamo di queste cose perché comunque sono cose serie. Serissime, che non vanno serissime, trattate così. Serissime, serissime, serissime. Hai ciao. Capito? Ciao tesoro, ecco. Ciao, ciao, ciao Lucianina. Ciao, chiamatemi quando volete. Ciao, grande, ciao, ciao. Ivan, provincia di Massa. Ivan. Ivan, pronto? Dimmi. Ciao ragazzi. Sì, togli l'auricolare e viva voce, dai Ivan, su. C'è un auricolare. Vai. Ascolta, io vi ho già provato a chiamare ieri per quel discorso di questi animalati, perché sono animalati che fanno, che godono sulle disgrazie del Nepal, cioè è veramente uno scandalo. Io vorrei, io però a parte vabbè i commenti su queste persone che è inutile anche parlarne, nel senso, però io vorrei sapere perché la gente non ne parla, ma perché ne parlate solo cosa? Voi? Perché di cosa? Di questa gente che fa queste affermazioni, che godono, che sono contenti. No, no, ma ne parlano, sul web, su web ne parlano, certo. Ma, sì, sul web, ma perché non lo sento al TG5, su Rai 1, perché non c'è la Striscia la Notizia, perché non le sento, le Iene, perché non ne parlano? No, no, vabbè, che c'entra? No, no, no, ragazzi, perché questo qua, è questo, quello che sta, l'eccesso di queste persone è veramente grave. No, a noi lo dici, da 4-5 giorni che mandiamo in onda follie di gente che gode per il terremoto. Di Nepal, perché... No, ragazzi, ma scusate un attimo, ma allo stadio, no? Te vai allo stadio, no? Fanno i cori che è puramente calcistica questa cosa qua, tipo ti faccio un esempio, Lavali col fuoco riferito ai napoletani, no? Sì, sì. E fanno migliaia di euro di multa alle società. Vabbè, ho capito, ma che devi fare se questi mezzi matti qua dicono di essere contenti, che vorrebbero altre scosse di terremoto perché Nepal fanno stragi di animali? Uno dovrebbe dire, vabbè, andatevi a curare, basta. No, non è, no, io li prenderei queste persone qua, li vabbè, prenderei. Vabbè, ma prendere e fare cosa? Li prenderei. Ma come per far cosa? Perché non è normale una persona del genere. Cioè, per anni, Dio buono, si è detto dei gay che era una malattia, che non è vero, ovviamente, nel senso. Quindi, e cazzo, questa gente qua non è malata, questa è una malattia. Ma infatti li chiamano i malati. A me lo dici, ma io li ho chiamati nazi animalisti, figuriamoci. Ho capito, ma... Sono dei nazisti questi qua, gente che si augura, e mi stupisco che c'è un economista, uno che insomma, uno che sì, dovrebbe, come si chiama, Benetazzo, che dice no, il karma, non so, però, altro, secondo te la TV non li difende questi qua, non facendoli vedere, secondo me li difende. Vabbè, ho capito, bisognerebbe fare una bella fila di persone con la faccia che dice io ho goduto per il per il terremoto, perché pensano che i nepalesi, penso che i nepalesi vadano sterminati tutti, perché ammazzano gli animali. A parte questo discorso qua, l'eccesso di questa gente qua va su tanti fronti. Cioè io adesso vabbè vengo dalla famiglia del circo. Scusa, ma vogliamo far ascoltare adesso? Prendetevelo con la Hunziker, facciamo ascoltare la Hunziker un attimo, eh. Cioè facciamo ascoltare la Hunziker, la quale ha detto che per il marito, no, per il marito. La odio, ha mollato Ramazzotti. Vabbè, ho capito, che cazzo vuol dire? Quello è successo un sacco di tempo fa, e la odio perché ha mollato Ramazzotti. Ma che ce frega adesso di queste cose? Comunque, per il marito è tornata a mangiare la carne dopo non so quanto tempo, 15 anni di vegetarianesimo, di non so se di veganesimo, ma non credo, eccetera eccetera. Sentiamo. Ho fatto 14 anni, che sono tanti anni, in cui mangiavo tutto tranne la carne, quindi non ero una vegetariana, mangiavo le uova, il formaggio, mangiavo il pesce e non mangiavo la carne, ma non era proprio una scelta dovuta al fatto che non digerivo la carne. Poi mi sono messa insieme a un bergamasco doc, fa delle bistecche proprio a casa, ormai ho dovuto comprare la griglia, cioè siamo sempre a fare le grigliate, così dai, e quando sono rimasta incinta di Sole io ho iniziato a mangiare carne. Io adesso sono sicuro, sono certo al 100%, ma sicuro che gli animalisti già saranno scatenati, siccome questa qua è stata più o meno vegetariana, cioè non ha mangiato la carne per 14 anni, la signora Hunziker. Facile. Adesso si saranno scatenati sicuramente contro di lei. Andiamo a ritrovare, andiamo a vedere nei social quello che è successo. Sicuro, 1000 per 1000. È tornata a mangiare la carne. Oh, finalmente. finalmente, alla faccia di veronesi e di altri. Per carità, veronesi non è che impone niente. Ma no, ma è una scelta individuale, non deve essere una religione quella, secondo fermi me. Fermi tutti, pubblicità. La Zanzara. Perché ti cadi sotto, sei un lettaculo e mi dispiace. Sei un lettaculo e ridi, però non sai che dire. Adesso chiudimi il telefono in faccia perché sono un pazzo, dai. Continuano le grandi inchieste della Zanzara sui cognomi. Esistono persone in Italia che si chiamano Salvatore Riina. Voi direte, vabbè, che male c'è? Però ragazzi, si può anche cambiare cognome, eh? Eppure c'è gente che non si vergogna. Eppure c'è gente che vuole andare avanti, vuole continuare a chiamarsi Salvatore Riina. Sì, buonasera, cercavo il signor Salvatore Riina. Scusa, chi è lei? È il comune di Druento. Pronto? Sì, buonasera. Mi dica. Sì, è il comune di Druento, ufficio cambio nome. Senta, qui c'è un'iniziativa per cambiare i nomi un po' scomodi, i nomi un po' delicati, insomma, il suo non è un bel cognome, no? Come non è il mio cognome? Stai scherzando? Beh, ma chi è lei, scusi? È il comune di Druento. Ma che è comune? Che è chi sta parlando? Che è... Il signor De Angelis, comune di Druento, ufficio cambio nomi. Allora? No, abbiamo deciso di cambiare alcuni cognomi, tra cui il suo. Lei capisce, lei si chiama Salvatore Riina. Appunto, no, per me va bene. Però scusi, Salvatore Riina è il capo dei capi, è un mafioso incredibile. Vabbè, ma cosa c'entra quello? Io avevo 50 anni che sono a Druento, eh. No, ho capito, però abbiamo deciso di cambiare nome alle persone che hanno cognomi. Ma è obbligatorio questo affare qua, no? Non è obbligatorio, diamo anche un contributo, 1.000 euro se lei cambia nome. Noi ci vergogniamo un po' di avere persone che si chiamano così nel comune. No, guarda, queste cose a me non me le... perché io non mi vergogno, io sono una persona onesta. No, certo, per carità, ma nessuno lo mette in dubbio. Però lei si chiama come il capo della mafia. Vabbè, senta, a Corleone, perché io sono di Corleone, no? Sì. O di Corleone c'è mezzo paese che si chiamano Riina. Allora devono cambiare tutti i nomi questi qua. Non lo so. Però Corleone fanno quello che vogliono. Aspetti un attimo, aspetti che le passo il funzionario. Un attimo solo. Le passo il mio capo, un attimo. Sì, pronto, buonasera, Salvatore Riina? Sì, buonasera. Dottor De Petris, salve. Il mio sottoposto poco fa. Il mio sottoposto poco fa le ha posto la questione. Allora abbiamo già due nomi per lei: Salvatore Falcone. Ascolta oppure un Salvatore Borsellino. Il nome è che io venga a comune per conoscere lei chi è. Sì, no, ma il collega le ha già spiegato tutta la procedura. No, allora... non mi ha spiegato niente, sono del comune, però io no. Capisco, no, però abbiamo due nomi da proporle, che è Salvatore lo può tenere. Cambiamo Riina e mettiamo Salvatore Falcone oppure Salvatore Borsellino, che è ancora meglio. Guarda, queste cose a me non mi interessano. È come il decoro urbano, c'è, cioè il decoro del cognome, è uguale. Ti sto dicendo, no? Come dice, che queste cose mi dispiace, no, non mi interessano, mica è obbligatorio che devo cambiare. Cioè, no, nessuno però... mi può obbligare a me a cambiare il mio cognome. Io sono fiero di chiamarmi Salvatore Riina. Ma è fortemente. Ma vuole mettere chiamarsi Borsellino, però scusa. No. O Falcone. Cioè, posso venire a comune a chiedere chi è lei? Sì, venga pure, ingroia. Allora, Falcone, Falcone, Borsellino, Ayala, anche Ayala può chiamarsi se vuole. Caponnetto, anzi, anche Caponnetto. Ma chi è che parla dietro? Chi è che urla dietro? Questo è il comune. Allora mi dica. Allora, le ripasso il collega per l'appuntamento, aspetti, le ripasso il collega. Eccomi qui, mi dica tutto. mi deve dire il suo cognome. De Petris, De Petris. Di De Petris. Di Pe. De Petris, comune, comune sì. Di Druento, comune di Druento. Di che cos'è al comune lei, che incarico c'ha? Io sono nella segreteria del sindaco. La segreteria del sindaco. Ne può passare il sindaco per cortesia? No, il sindaco in questo momento non c'è. Lei venga a via Roma, al comune, a via Roma. Lei lo sa dove è il comune, sì. Vabbè, a questo momento io altri sistemi, altre cose per la testa, altre cose, quanto vuoi, comunque. Con l'avvocato. No, però scusi, abbiamo deciso. E al comune ti sto dicendo, mandato il nome. Scusi però questa qua è un'iniziativa del sindaco per il decoro della città. E allora io voglio parlare perché, con il sindaco. Perché noi ci vergogniamo di avere in città qualcuno che si chiama come il capo dei capi, cioè Salvatore Riina. Il comune ha deciso che questa cosa qui va cambiata, ha capito? No, il comune a me quelle cose lì no. Io parlo con l'avvocato e poi si vedrà. Ma quale avvocato? Ma che vuol dire l'avvocato? Su, l'avvocato, che c'entra? Ma diamo anche un contributo. Cioè, no. Queste cose a me lei non me lo dire che si vergogna come mi chiamo io, perché io c'ho quello nome di nascita e c'ho quello nome lì. Ma scusi, comunque domani io vengo al comune e parlo con il sindaco, salve, arrivederci. Però scusi. Signorina, ma lei si rende conto che Salvatore Riina era il capo dei capi, una persona che ha ammazzato un sacco di gente? Ascolta, a me c'ho altro da fare, c'ho gente a casa, c'ho altro da fare, non mi posso. Domani vengo a comune e parlo con il sindaco. Ma 1.000 euro non va bene, 1.000 euro? Non mi interessa. I soldi non le interessano? Non mi interessano queste cose qui. Ma è un'iniziativa del. Stiamo eliminando anche altri cognomi. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Sei sceso di livello! Ma stavo scherzando! Allora andiamo a Milano, Tatiana, vai! Ciao, io ho ascoltato quello che avete detto sulla detenzione di armi, eccetera. Io vivo da sola, fuori Milano. Sì, sì. E ho un porto d'armi perché mi piace andare al poligono, mi piace sparare, è uno sport come tanti ce ne sono. E a casa, naturalmente, ho la mia arma, no? Ora, io non so esattamente come mi comporterei se venisse qualcuno in casa. Sicuramente sparerei in alto e poi comunque mi difenderei. Ma perché c'è perché il porto d'armi? Tatiana, perché il porto d'armi tu? Ma così, perché mi piace come sport, non perché ci siano dei motivi specifici. Cioè hai le armi a casa? Una certa sicurezza, mi piace. Cioè vai a sparare in un poligono, che fai? Vado a sparare in poligono, certo, il sabato e la domenica. Non so mica se la stessa arma tu la puoi utilizzare per sparare a casa se entra un ladro, eh? Vabbè, non lo so, ci penserò dopo, so come succedono queste cose, cercherò di stare in alto, ho anche un Rottweiler, per cui insomma prima di arrivare in casa non è così semplice, però non trovo che sia una cosa da mille a una notte, dire oddio, certo che chiamerei il 112, certo che ci sono delle cose, ma quando sei lì e ti capita un'emergenza senza voler uccidere, senza un accanimento, però sei a casa tua, sei al posto tuo, se c'è qualcosa di che. Ecco, io non trovo che sia così fuori dal normale. No, ma io lo trovo fuori dal normale che uno è fuori dal normale, sì. Che uno comunque telefoni anche con una certa, non telefoni qui, ma in generale con una certa vanità, rivendichi chi farebbe avere delle armi in casa. Ma perché questa signora sta chiamando? Ha detto che io non capisco. Ha detto che utilizzerebbe la sua arma se viene un ladro dentro casa, magari sparando in alto, magari sparando addosso, se c'è qualcuno che gli viene addosso. La polemica ha semplicemente un senso, perché siccome ci sono dei politici che addirittura hanno detto io sono Stacchio, io sto con Stacchio. E allora? Di questo parliamo, cioè di un signore che comunque ha sparato, siamo d'accordo? Ha sparato e ha ucciso una persona. Allora, siccome non è normale però fare magliette con sopra scritto io sono Stacchio, ma no, certo, non è gli eccessi sono sempre ridicoli, non è una roba normale. Parlando di normalità, insomma, però ritengo che sia abbastanza armatevi, fate come vi dico, io... armatevi tutti, poi ogni tanto l'amante, la moglie vi tradisce, sparate magari come alle volte succede, oppure prendete l'arma come ha fatto quell'altro pazzo e entrate al palazzo di giustizia e fate una strage, oppure sparate per strada, facciatevi lì alla finestra del bene. Tatiana, rispondi a Parenzo, rispondi. Scusa, ma mi sembra che non penso che si debba andare a sparare per strada o che no, ma l'eventualità che venisse qualcuno non lo sto dicendo a lei, dico che prima ha chiamato una delle classiche nonnine della Padania, che anziché tirare la pasta e fare il ripieno delle melanzane alla parmigiana, spiegava. Ma se uno ha un'arma e se entra un ladro la vuole usare, ma qual è il problema? Non ho capito, se ne assume la responsabilità. L'altro giorno, non mi ricordo dove, in provincia di Cremona, eccetera, hanno condannato un tizio a 4 anni perché in un capannone ha sorpreso dei ladri, gli è scappata una pistolettata che ha ferito gravemente uno che è romeno, ma non me ne frega niente, nemmeno che può essere romeno, italiano, non è importante. Si è preso 4 anni di galera, 4 anni insieme a un altro, perché col fucile nel suo posto, nel suo cantiere dove stava, gli è sfuggita una pistolettata e ha ferito un ladro che era andato lì a rompere i coglioni, capito? Cioè non mi pare una cosa così assurda, cioè è assurdo ogni tanto che questi subiscono dei processi e anche in alcuni casi delle pene. È assurdo, assurdo secondo me, assurdo. È assurdo che uno che spara subisca poi un processo, secondo me è abbastanza assurdo, ovviamente tranne il caso in cui uno rincorre il ladro e gli spara alle spalle mentre il ladro sta scappando, quello insomma si potrebbe discutere, ma il caso in cui tu vedi un ladro e spari, se sei autorizzato a sparare, tu non devi subire nulla, niente secondo me. Se nella tua proprietà entra qualcuno, hai il porto d'armi, puoi sparare, spari perché hai paura che quello ti ammazzi, non devi nemmeno, subisci l'interrogatorio, ma di processo non se ne deve parlare. Massimo Boldi è con noi, Massimo! Buonasera, come va? Tutto bene? Come va, cipollino mio? Come va? Quando è che andiamo a cena fuori e te? Mai. Quando vuoi, settimana prossima. Parenzo, omaggio un attimo Boldi, che sa tutto sul Milan, adesso ce lo rivelerà. Sa tutto sul Milan. Ci dirà tutto. Ciao, cipollino. Ci dirà tutto sul Milan. Allora, è vero, t'ho visto però a colloquio molto fitto con vari personaggi l'altro giorno allo stadio, addirittura con Galliani a un certo punto, no? Sì. Ieri sera. Che ti ha detto, signor Galliani? Ma ha detto tutto e niente, ha detto, insomma. Vabbè, dici tutto, innanzitutto. Dici, raccontaci, rivelaci qualcosa. Guarda, secondo me il Milan sicuramente verrà venduto, sì. Però abbiamo un grosso vantaggio, cioè? Che avremo un miliardo di tifosi, sarà una squadra che avrà tantissimi tifosi e credo non solo, ma sicuramente verrà fatto un nuovo stadio, perché bisognerà, beh, certo, per raccogliere tutti. Beh, allora altro che l'Expo è una caccoletta, hai capito? Ma scusami, allora tu sei sicuro che alla fine vai ai cinesi? Ma o cinesi o thailandesi, però insomma siamo sempre da quella parte. Beh, lì, insomma, sono un po' meno thailandesi però rispetto ai cinesi. Ma insomma, staremo a vedere. L'unica cosa che mi è piaciuta ieri sera è vedere ancora un'altra volta perdere un Milan così in malo modo. Vabbè, quello che vuoi fare. Ormai è una china discendente così. Cioè, però vabbè, ma lascia perdere le questioni del calcio. Ma tu sei contento che il Milan viene venduto o no, Cipolli? Ai comunisti. Guarda, io devo dire la verità, sono felice che venga venduto. Perché? Ma soprattutto perché il Milan ha bisogno di essere rinnovato, ha bisogno di diventare quello. Cioè Berlusconi che vuole più Milan. Non vuole più mettere un euro, questo è il punto. Ma lì non si capisce, guarda, sinceramente non si capisce se non vuole mettere soldi, se non ne ha più. Marina Berlusconi sembra che non sopporti questa cosa del Milan, questi soldi che vengono spesi per il calcio, eccetera. Sai, una famiglia grande, ognuno ha. Ma tu non sei triste, anzi no, dici sei contento, siccome Berlusconi non mette più un euro, alla fine è meglio darlo ai cinesi, ai thailandesi. Darlo a quelli che ci credono e vogliono mettere i soldi e vogliono riportare la squadra come era una volta. Ma scusate, tu, comunque qui andiamo veramente male, andiamo in B, altro che base. Ah, se non si vende si va in B, dici? Si va in B, dopo sei il primo della B, ma chi se ne frega. Io mi ricordo quando è andato in B il Milan, era 1981, ragazzi. Sì, giocò con la Cavese. Hai capito, non va mica bene. Senti Massimo, ma per cui tu dici tra i thailandesi e i cinesi, forse meglio i cinesi, che so di più. Secondo me meglio i cinesi, sono molto più. E poi E poi sono tanti, sono veramente molti. Sono moltissimi. Pensa a Massimo Boldi che fa. Com'è che tu hai fatto il cinese qualche volta? No, no, il cinese no. Il cinese non l'ho fatto mai. Sarebbe una bella idea questa. È un cine panettone, no? In Cina. Un cina panettone. Cina. Un cina panettone sarebbe mica male. Sarebbe. Sarebbe interessante. Infatti, guardi, io quest'anno avrei fatto un bel Natale a Shanghai. A maggior ragione si può fare, no? Appunto, è lì si poteva, ma solamente che forse magari l'anno prossimo. Senti, vediamo. Ma Berlusconi che vende tutto, no? Il Milan, adesso pure forse una parte di Mediaset. Ormai è la fine di tutto, è proprio la fine di un ciclo, cioè non sei un po' triste? È la fine del grande Berlusconi, o no? Guarda, io sono solamente un po' triste solamente perché vedo che tutte le nuove generazioni che hanno preso in mano la situazione traballano un pochino, ecco. Cioè? Io. Cioè Berlusconi non ha eredi in politica, diciamo, non ha eredi in politica. No, è un po' tutta una dinastia che piano piano va a scomparire. Cioè tu dici i figli di Berlusconi non sono capaci? No, i figli di Berlusconi sono capaci per quello, ma non mai, secondo me non sono mica loro che poi decidono. Però non sono all'altezza del padre. È un'azienda, ma no, ma lì c'era un personaggio, io sono cresciuto con lui, voglio dire. Cioè i figli non sono all'altezza, dici? Ma no, non c'entra che i figli non sono all'altezza, è proprio un fatto di mentalità. Dedizione al lavoro, tu dici, no? No, dici, si lavorava come bestie, no? Ma si lavorava in un modo diverso, certo, era un'altra epoca, tutto Ma tu l'hai visto, Parenzo, Boldi, c'è stato pure un frammento di Boldi 1992 nella serie. Guarda, io sono stato uno, forse l'unico attore che ci ha messo la faccia in quella fiction. Sì. Praticamente ho fatto Boldi che fa Boldi, sì, che presenta Berlusconi in una convention di Monte Carlo, sì. Quando me l'ha proposta sì. Brizzi, sì. I Mieli, sì, sì. Sono rimasto un po', dico, ma sono no, dice, guarda, è una cosa importante. Però Mediaset ha criticato molto quella serie, perché veniva fuori. No, sì, ma so che Berlusconi si era molto incazzato perché chiaramente prendeva un po'. Ah, Berlusconi si è incazzato, l'Italia. Berlusconi si è incazzato per questa roba qua? Sì, io credo che si sia incazzato molto. Si è incazzato per 1992, bah, secondo me manco l'ha vista con tutti i cazzi che c'è. Adesso faranno 1993, allora forse magari non si incazzerà più. Forse con 94, quando vinsero, si incazzerà 94, più. Sì, 94 andrà bene. Va bene, un attimo la pubblicità, poi torno da te, un attimo, resta lì Massimo, non andare a mangiare ancora. 800 24 00 24, pubblicità, anzi, poi borsa. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Sei ancora a casa, Emo? Allora, siamo con Massimo Boldi, un mito, una leggenda. Ti voglio informare, caro Massimo, che il tuo amico o ex amico, non so, Christian De Sica, oggi, mentre tu stavi a casa a trastullarti, era all'inaugurazione della Maison, di una delle tante Maison Armani a Milano, con personaggi incredibili. Ah, beh, certo, vabbè, noblesse oblige, certo. Cioè, tu dici, lui appartiene al mondo del fighettismo. È un altro mondo, io sono terra-terra, noi andiamo nelle osterie milanesi, non è che andiamo alle boutique di Armani. Ma questo mi sembra normale, per quello che il pubblico mi vuole ancora così bene. Senti Massimo, ma tu hai mangiato mai delle cose strane nella vita? Dei cani, dei gatti? Guarda, io quando chiaramente ho girato mezzo mondo, sì, specialmente in Africa e in India, ho mangiato delle robe che sembrava pollo, ma sinceramente non vabbè, ho mai così, però ha impressione. Quando hai fame, bisogna mangi. Ma cose strane non hai mai mangiato consapevolmente? Che ne so, dei cani no, lucertole. Forse, gatti? Non lo so. Gatti no. Gatti niente. Spero di no. Quello non si può mai sapere, dici. Devo avere mangiato sicuramente degli insetti da qualche parte. Quando locustre. Perché quando ho girato in India, ero, sì, a Jaipur, sì, siamo scesi dall'aeroplano, che era un aeroplano a delica, sì, molto particolare, piccolino, sì, ci sono saltate addosso delle cavallette enormi, sì, verdi nere, sì, che poi ci hanno detto che venivano mangiate col cioccolato. Pure. Veniva intinta nel cioccolato, mamma si mangia mia. La cavalletta. Ecco. A me mi fa cagare. Mamma mia, una cosa orribile. Una cosa orribile, però come scrivere ti devo. Senti una cosa, ma secondo te Inzaghi non va cacciato? L'hanno confermato? L'hanno confermato, povero Pippo. Pippo, super Pippo, però secondo me la colpa non è proprio tutta tua. È giusto confermarlo, era meglio cacciarlo. Ma tanto ormai è finita. Tu dici che cazzo non cambia a fare? Chi se ne frega, tante anche se le perdono tutte. L'importante è non andare in B, ma poi. Vabbè, certo, adesso in B non ci vai. Tre punti in più, tre punti in meno, che cosa per cambia? Per cui è inutile mandarlo via adesso, dici te? È inutile mandarlo via adesso. Teniamolo, vediamo che cosa. Vabbè, teniamolo, poi cambiamolo subito, poi, no? Piuttosto deve cambiare i giocatori, io sai che cosa farei? Metterei tutti i giocatori che quando era iniziato il campionato, più o meno, adesso non tutti, c'è qualcuno che si è fatto male, si era incontrato al Sharawi e dice che gli fa ancora male il ginocchio e di conseguenza non può. Però insomma più o meno con quella formazione lì. All'inizio dici, quella dell'inizio. Sì, Deciglio, insomma. Senti, ma ti voglio chiedere un'ultima cosa, ma Rocco Siffredi rinuncia al porno, ma tu potresti mai rinunciare ai film di Natale? Cioè, no, ai film di Natale è difficile che io rinunci, infatti quest'anno ne sto mettendo però, in piedi un altro. Se Rocco Siffredi rinuncia al porno, potresti rinunciare pure te a qualcosa. Che devo rinunciare io? Qui io devo mangiare pure io, ragazzi, qui manca la materia prima. Vabbè, non mi dirai che sei scannato, che non c'è un euro. No, sono scannato, sono pieno di debiti, ragazzi. Ma come mai? Mai? Perché c'è un treno che devo portarmi appresso, caro mio. Ma come mai? Di debiti di che cosa? Scusa. Che treno? Debiti generali. Ma debiti. Che fai, gioco? Ma no, assolutamente no, sono debiti leciti, leggi. Roba normale, proprio, debiti, cioè. Di lavoro. Avendo aperto una società di produzione di circa 8 anni fa, 9 anni fa. Ma che c'hai, debiti col fisco, dici? No, debiti proprio di produzione, di. Cioè con le banche, iscritti, con le banche. Autori, contratti, cose, eccetera. E poi, quanti debiti hai, scusa? Quando riesci a fare un film e di conseguenza vai in debito con la banca. Ma quanti debiti hai, scusa? Ma di per quanto? Beh, insomma, per qualche cifretta. Cioè, 2 milioncini? No, di meno. 1 milioncino? Meno, la metà. 500.000 euro, vabbè. Sì, sì. Sei sotto di 500.000. Ma come vabbè? Ma in banca tuoi ce l'hai i soldi o no? No, io ormai ho preso tutto. Io ormai hai speso ho tutto? I miei figli tutto. E come fai a mantenerti? Come fai a mantenerti? Come faccio? Ma a me basta la pensione, adesso oggi l'hanno dimezzata, anche se penso un po' che roba. Che pensione pigli? Quella da cosa? Io piglio una pensione molto esile, piglio 2.500 euro al mese. Cioè tu mi stai dicendo che campi con 2.500 euro al mese? No, io non credo di riuscire a farlo. Però insomma. Come non credi di riuscire? Cioè campi? Sicuramente non ce la faccio, no. Ah, non ce la fai a. Non ce la faccio. Cioè quanto il tuo budget al mese, quanto spendi? 5.000? Che c'hai? La Filippina, a casa? Ma no, sì. Cioè, la Filippina non mi sembri morto di fame, però. No, adesso per l'amor di Dio, qualche risparmio c'è, voglio dire. Però bisogna lavorare. Però la cosa triste è che è arrivata la mia età, che io quest'anno. Io sono nel 1945, fatti conti tu che cosa faccio. 70. Non sono ancora arrivato a 70, però quasi. Ecco. Perciò rimanere così in bilico e in difficoltà non certo me l'aspettavo. Ti scoccia assai e vorrei lavorare. Vorrei che Murdoch comprasse tutte le televisioni in Mediaset e di conseguenza ricominciamo una nuova carriera. Ah, meglio Murdoch, alla fine è meglio che Murdoch si compra tutto. Compri tutto, di cinesi, Murdoch, tutti quanti. Sì, ma perché Berlusconi non ti fa più lavorare? Ma secondo me non, lui mi farebbe lavorare. E chi so, chi è che non ti fa lavorare? I figli? Sa, questo sarebbe un bel mistero. I figli? Ti rodo il culo però. No, i figli cazzo mi vogliono ma bene. Ma c'è qualcuno che te lo impedisce di lavorare? I figli? Esatto. Non mi fanno lavorare a Mediaset, vabbè. E non si sa chi. Vabbè, ti abbraccio. Ciao, sì, caro. Che siamo vecchi, hai capito? Ciao, caro. Ciao, ciao bello. Ciao. Allora, Giovanna da Pisa, vai Giovanna. Ciao bello! Ciao! Io ti ascolto tutti i giorni. Sì, dimmi. Però dimmi. Vorrei dirti una cosa. Dimmi. Guarda che io la mia età non mi prendo in giro, eh. Dimmi. Allora, la trasmissione è bella perché parla di tutto e. Allora? però a volte un po' troppe parolacce. Ma quali? Ma stasera non abbiamo detto nulla, dai, su Giovanna, sì, non rompe. Io sentivo ora Boldi, ascoltami. Ma che ha detto? Che ha detto? Che ha detto Boldi? Boldi che campa male con 2500 euro al mese. Te pensa che c'è gente come me che con 700 mandano avanti. No, non ha detto che campa male, ha detto che non è bello ritrovarsi dopo tutto questo lavoro, diciamo, con le pezze, con le pezze al culo. Vabbè, ma non ha Parenzo che sia zitto, io voglio parlare con Cruciani e basta. Vabbè, ok, adesso non è che si somiglia, si piglia, amica mia. Ma no, Giovanna, vabbè, ti ha dato fastidio questa roba qua di Boldi? No, perché siamo pensionati che si va avanti con l'elemosina. Ma d'accordo. No, aspetta, fermo. Non ho capito, Giovanna. In che senso? Siamo pensionati che si va avanti con le pensioni da elemosina. E poverina, ha ragione. Aspetta, certo, Giovanna, no, in che senso? Allora, quanto era la No, aspetta, aspetta. Più? Giovanna, quanto prendi di pensione? Scusami. 710. Ma perché ti stai mettendo a piangere adesso, tesoro? No, così mi viene l'emozione, perché non credevo di poter parlare. Così. No, ma non è questo, è perché ti sei emozionata per la questione dei 700 euro, secondo me. Mm-hmm. 2005, ce l'avessi io, mi comprerei già subito domani all'altro una casa. Ma ce la 2005 fai con... sono tante. Ma ce la fai con 700 euro o no? Ma io vado, sono una donna che mi do da fare, vado avanti. Ma io ho telefonato solo per dire anche, poi non ti voglio disturbare di più, che questi ragazzi che hanno preso per questo affare a Milano, no? Expo, ma come fa un ragazzo partì per esempio da Pisa per potersi mantenere con quegli stipendi che loro gli danno a Milano? No, ma non, ma non si deve mantenere, sono lavori provvisori questi qua, sì, sono situazioni che si aprono per i mesi dell'Expo, soprattutto di persone che magari nel frattempo studiano, eccetera. Poi, per carità, se ci sono dei contratti e vengono fatti in maniera sbagliata, se le persone vengono sottopagate, se si violano le leggi, siamo tutti d'accordo. Vero, ma finché ti offro un contratto, diciamo un lavoro che è più o meno un volontariato con un rimborso spese, eccetera, per grandi manifestazioni ci può anche stare. Non rompete i coglioni a queste robe qui. No, cioè si aprono possibilità, si aprono situazioni. Il lavoro non è quello. Nessuno dice che l'Expo genera lavoro. Nessuno dice che l'Expo genera lavoro. Beh, questo no, lo può fare. Sì, ma non vi fate abbindolare. Io sono studente in casa e io gli ho detto l'altro giorno, perché no, anche te non ti sei e lui dice, ma io vado là, come mi mantengo? A Bergo c'è da dormire. Beh, certo, è un problema, sicuramente, perché qua aumentano. Però Giovanna, stai su, non ti abbattere. Senti, non ti abbattere. Fai qualche diretta anche da Pisa. Aspetta, che aspetta, sono... Giovanna, aspetta, aspetta. Pronto? Giannone? Sì. Sono Cruciani, ciao. Ciao Cruciani, dottor Cruciani. Ti disturbo? No, assolutamente no. Allora, Gerardo Giannone, siamo in diretta qui alla Zanzara, te lo dico. Sì. Che è candidato del PD in Campania, o sbaglio? Sono un operaio cassa integrato della Fiat. Vabbè, e questo... candidato al consiglio comunale di Casanuovo di Napoli. Ah, ok, benissimo. Comunale di un paesino. Casanuovo di Napoli, adesso non consiglio regionale. Perché hai dato hai dato della zoccola alla taverna e hai detto anche grillini squadristi? Per un motivo abbastanza semplice. Ho commesso un errore perché ho sbroccato di fronte alle ultime, diciamo così, invettive della taverna, la trasmissione televisiva Ballarò, ho sbroccato e ho commesso un errore. Richiedo scusa in diretta nazionale. A lei non gliene frega niente delle tue scuse, sembra. Ma voglio dire, a lei non gliene frega niente, io lo faccio lo stesso, le scuse, perché non si dà della zoccola a una donna. È no, però tu hai subito dopo hai detto un'altra cosa, cioè non hai chiesto subito scusa, cioè hai detto che in fin dei conti zoccola, com'è che hai risposto? Sarà pure vero che il termine zoccola è pesante, ma giusto per capire come funziona, se offendete voi è normale? Cioè hai detto semplicemente che era un termine pesante, cioè ti sei scusato un po' dopo o no? Guarda, tu sei una persona abbastanza pratica, spiccia nelle cose, sì. Lo sai meglio di me, conosci il mondo del Movimento 5 Stelle abbastanza. No, ma io sono guarda, prima ho detto dei movimenti eccetera, voglio dire, le parolacce loro le dicono. Ma noi abbiamo detto prima, deputati 5 pentastellati l'anno scorso chiamò zoccole, disse che facevano tutti quanti pompini. Come no? Della commissione. Come no? Me lo ricordo bene. Grillo chiamò puttana la nostra premio Nobel Montalcini. Voglio dire, il vocabolario dei 5 Stelle la parola zoccola, diciamo, non è tra le prime, tra le più pesanti. Cioè, è tu dici la taverna non si dovrebbe sorprendere più di tanto, non si dovrebbe offendere più di tanto, tu dici tu. No, la taverna fa bene ad offendersi come donna, perché il linguaggio che ho usato io può essere inteso, come è stato inteso, come offesa sessista, e dunque fa bene ad però, offendersi. Però capito, ma perché come ti è venuto in mente di dire zoccola? Brutto, di scrivere... brutto. Come ti è venuto in mente? È abbastanza semplice la cosa, mi è venuta spontaneo, faccio l'operaio, voglio dire, no? Non è che faccio il deputato o il senatore di professione. Vabbè, che c'entra? Campo di 700, 800, no, voglio dire. Non è che se uno fa l'operaio è più semplice. Deputato a scrivere zoccola. No, voglio dire, ho sbroccato, perché quando tu senti siete vergognosi, sì. Siete il male dell'Italia, stiamo andando in un regime fascista, tutte le solite cose, questo lo sento ormai da anni. Sì, vabbè, allora... Arriva un punto che sbrocchi, io ho sbagliato perché non dovevo sbroccare in quel modo là. Ma come mai proprio zoccola? Perché proprio è questo? Ma che sai, non... a Napoli la parola zoccola può essere anche intesa come un complimento, quando uno dice sì, un figlio è zoccola. No, faccio spiegare da Parenzo sta cosa qua. Addirittura un complimento, dai, su. Cioè. No, a Napoli, domanda, se uno a Napoli si figlia zocca, significa che sei una persona furba, scarpe. Sì, capace, sì, uno figlio Androcchia, sì. Una cosa del genere. Esatto, bravo. Esatto, però tu non lo intendevi in quel senso, dai. Tu gli hai proprio detto zocca. Io l'ho inteso nel senso... tra virgolette dispregiativo della parola, non in maniera forte, ma comunque non si dice. Io ho commesso un errore, mi ho detto gli italiani a non dire mai una cosa simile. Ti hanno bacchettato pure dai piani alti. Vabbè, il branco no, assolutamente no. Beh, sì, dal Partito Democratico qualcuno si è incazzato, ha detto che hai commesso un errore. Vabbè, Nicodemo, stai parlando tu. E non solo, altre persone. Perché? Ma io non ho capito una cosa, ma qualcuno ti ha detto addirittura i 5 Stelle che dovresti ritirare la candidatura? È apparso pure qualcosa? Grillo. Il vicepresidente della Camera, Di Maio, ha detto che dovresti ritirare la tua candidatura. La stessa persona che domenica scorsa aveva il suo candidato 5 Stelle a Casanova, che chiamò pubblicamente, stavo io presente, disse: i deputati del PD sono tutti ladri, no? È lo stesso Di Maio che un anno fa, se ti ricordi, questi tempi qua, disse: se viene Renzi nella terra dei fuochi lo prendiamo a calci nel sedere, a calci in culo, istigazione alla violenza, tanto per intenderci. Voglio dire, se questa persona qua vuole che non mi candida al consiglio comunale, che ci vogliono 400-500. Ma tu hai sentito la sorella della taverna? Hai chiamato la sorella della taverna addirittura? No, è lei che mi ha contattato, prima ha offeso la mia famiglia. La sorella della taverna? Sì, mi ha contattato dicendo: caro Giannone, mi ha offeso la mia famiglia, e io ho detto: ok, siamo uno a uno adesso, possiamo parlare tra persone adulte. Ma perché? In che senso ha offeso la tua famiglia? Se ho dato della zoccola alla sorella, lei avrà dato della zoccola a mia madre, tanto per intenderci, no? Ah, quando te l'ha dato? Mi ha scritto questo. Ieri mattina mi ha scritto questo. Io l'ho presa giustamente così. Ma dove ti ha scritto? Su Twitter? Dove ti ha scritto? Su Facebook. Sulla posta su Facebook. Dunque è un intreccio pazzesco, Parenzo. Cioè, praticamente. No, ma io ho capito, ma. Vabbè, ha chiesto scusa. Comunque, però, non ritiro. Posso dire una cosa? Dimmi. No, però, scusami. Scusi anche lei, Parenzo. Scusi, voglio. Giannone, dimmi una cosa: se sbagli nel ragionamento, io mi ho chiesto scusa, perché un uomo deve chiedere scusa quando sbaglia una donna, a tutte le donne d'Italia, perché è un commento sessista. Però voglio dire, ora io mi sono passato la mano per la coscienza e ho chiesto scusa umilmente, ma tutti i militanti come me, però in questo caso del Movimento 5 Stelle, che ogni santo giorno da anni offendono in tutti i modi il segretario del mio partito, i ministri del mio partito. Cioè, dovrebbero chiedere scusa 100 volte. Dovrebbero chiedere scusa 100 volte. Milioni di elettori del partito. Tu dici dovrebbero chiedere scusa 100 volte loro? No, una sola volta. Potrebbero chiedere scusa. Sì, anche noi abbiamo fatto. Cioè, tu dici la volgarità, la loro volgarità è una cosa talmente. Mille volte la mia, voglio dire. Ho capito. Proprio. Va bene, grazie. Devo chiudere, ciao, a presto, ciao. Allora, proprio un flash, Ezio, provincia di Pescara, un flash, vai. Ciao carissimo. Dimmi. Volevo sapere una cosa, io sono comodamente seduto, la DSL, ti vedo, allora? Eccetera. Ma come mai il tuo amichetto... Perché è a casa a Roma, No, lui si nasconde sotto al tavolo, perché si vergogna per le cose che dice... Tutto che qua. Cazzo fallo c'entra? Fuori dal tavolo. Ma è a casa, fallo... non c'entra niente il tavolo. Vabbè. Guarda, io penso che tu sia un idiota, l'ultimo idiota della serata. Allora, Ezio? Poi? Tu ha chiuso il cerchio degli idioti e poi? Della serata. Poi? No. Senti, a proposito di cerchi, sei felice adesso che hai telefonato? Veloce. Sei felice o no? Ora? Veloce. Perché? No, per sapere se tu sei nascosto sotto al tavolo. E poi perché Cruciani ci ha portato gli anelli alle mani, ci ha degli anelli da gay. Come gay? Sono anelli stupendi del mio amico, che poi vi dico domani come si chiama. Adesso mi sono scordato. Va. Era questo. Ciao. Io volevo dire. Ragazzi, devo chiudere. Gli anelli sono stupendi, mi piacciono. Basta questo. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Ciao, vi bacio a tutte e due. Andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.